Radio Onda Rossa 87.9, siamo in collegamento con Bruno, compagno che attualmente si trova negli Stati Uniti, che fino a poche ore fa si trova proprio a Minneapolis. Lo salutiamo, gli chiediamo se ci sente bene. Ciao a tutte e tutti, e sì, mi sento benissimo. Perfetto. Allora, con te per parlare, in realtà ti abbiamo già sentito anche nei giorni scorsi e facciamo degli aggiornamenti rispetto alle proteste che ormai sono dilagate un po' in tutti gli Stati Uniti rispetto alla morte di George Floyd lo scorso 25 di maggio ad opera di un agente di polizia, di Derek Chauvin. Andiamo un po' a fare una panoramica soprattutto rispetto a quello che è il qualche modo l'occhio del ciclone di questa protesta, ovvero la città di Minneapolis. Sappiamo insomma che sono stati schierati oltre 10.000 soldati, insomma che c'è una situazione ormai con la Guardia Nazionale schierata H24, il coprifuoco e delle proteste che però non accennano assolutamente a diminuire. Quello che ti chiediamo, visto che sei stato lì fino a poche ore fa, è qual è la situazione in città vista proprio dal campo? Allora, la situazione ieri era, diciamo, fino a ieri sono stato in giro per la città ed era estremamente tesa. C'è l'esercito con mezzi blindati che presidia la città, barriere di cemento da tutte le parti, strade bloccate. La situazione è estremamente tesa. E anche perché ci sono, specialmente la notte, ci sono stati. E spari di arma da fuoco, ci sono stati dei fermi di alcune persone che possedevano armi da fuoco e la situazione sta la situazione è, sì, è sta a un punto di ebollizione enorme, che è molto particolare per la città di Minneapolis, perché a differenza di città come New York o come Los Angeles non ha una tradizione di lotta, di mobilitazione, di organizzazione popolare e né di organizzazione delle comunità afroamericane. Per cui è una cosa molto nuova. Ci sono grandi mobilitazioni. Il 31 c'è stata una enorme manifestazione a cui ho potuto partecipare. Ed è stata veramente una cosa immensa, che pensando che Minneapolis comunque è una città relativamente piccola, cioè non è una città enorme, ma la manifestazione c'erano decine di migliaia di persone che protestavano contro la polizia per l'omicidio di George Floyd, ma anche contro il coprifuoco e contro questo stato d'assedio, diciamo, della città. E nella manifestazione c'è stato un incidente piuttosto strano. L'incidente è stato che nel momento in cui la manifestazione attraversava un ponte ed era pienissima di gente, un ponte molto molto lungo, molto grande, molto ampio, molto lungo, cioè un'autostrada, un viadotto, un camion cisterna di benzina è riuscito a passare dei blocchi che limitavano la circolazione, cosa già di per sé piuttosto strana, perché comunque la polizia, cioè, il controllo della città è abbastanza serrato, e andando in mezzo alla manifestazione a una velocità non incredibilmente sostenuta, però è sufficiente per far male alla gente o per uccidere qualcuno. E il camion è stato, i manifestanti sono riusciti a saltare, diciamo, il camion, a bloccarlo. Poi la polizia è intervenuta ed è intervenuta scortando e proteggendo l'autista del camion, cosa anche molto strana, perché io stavo filmando e sto rivedendo in questo momento, questo preciso momento, stavo rivedendo il girato, e la persona, normalmente la polizia negli Stati Uniti ti ammanetta immediatamente e poi dopo se ne parla, insomma, e la persona diciamo, è stata più che altro protetta dalla polizia e messa dentro una macchina della polizia, però diciamo, con gli agenti che lo proteggevano, cioè era un abbraccio di protezione e non di controllo. Però non sappiamo nient'altro, non si sa assolutamente nulla di questo incidente. A seguito del quale la manifestazione è stata disciolta, perché appunto la polizia è intervenuta in mezzo, si è spezzata la manifestazione, ovviamente una carovana di mezzi della polizia con gli agenti antisommossa dentro la manifestazione in questo particolare momento ha scatenato un momento di tensione, lanci di oggetti, la polizia ha lanciato qualche lacrimogeno e quindi questa cosa ha spaccato e ha dissolto quella che poteva essere la manifestazione più grande della storia di Minneapolis. Senti, rispetto alla, anche al coprifuoco, a tutte queste normative di controllo anche abbastanza stretto che sono state annunciate sia da Trump ma anche da diversi governatori locali, tu hai avuto modo di osservare un rispetto anche di questo coprifuoco, o quantomeno che la polizia riesce in qualche modo a far rispettare il coprifuoco, oppure di notte continuano ad esserci comunque incidenti, saccheggi e proteste anche dopo che il coprifuoco viene... No, il primo giorno del coprifuoco, che è stato mi sembra 3-4 giorni fa, in realtà poi non è stato applicato il coprifuoco, nel senso la gente non lo ha rispettato, né tantomeno la polizia lo ha cercato di imporre con la forza, ma dal secondo giorno di coprifuoco è stato un coprifuoco assoluto, cioè la polizia interviene immediatamente in forza e arresta qualsiasi persona si trovi fuori. Realmente non c'è stata a Minneapolis la possibilità di violare realmente le persone, tutte le persone che hanno sfidato la misura, non so, l'ultima, l'altro ieri, dopo l'incidente del camion, io stavo con le persone che stavano sfidando la misura del coprifuoco e sono state attaccate da uno schieramento immenso di polizia, circondate e tutte arrestate. Cioè, ci sono state centinaia di arresti e non c'è e le persone, diciamo, si sono fatte arrestare in maniera assolutamente pacifica. A Minneapolis c'è un movimento che confronta la polizia, come o comunque le persone in generale non sono abituate a confrontare la polizia, e non c'è stata nessun tipo di resistenza, però, cioè la resistenza era di tipo passivo, diciamo, cioè io sto qua, non me ne vado e sfido il coprifuoco che iniziava in quel momento alle 8 e poi ieri l'ultima sera sono rimasto a Minneapolis, il coprifuoco iniziava alle 10, ma da quanto ho capito non c'è stata una c'è stato nessun incidente. Il coprifuoco è veramente rigoroso in questo senso. In queste le città, so che a New York e in altre città, dove comunque i manifestanti hanno anche un'altra tradizione di lotta, un'altra tradizione di ribellione, e il coprifuoco non, cioè, è stato sfidato in maniera molto più attiva, per così dire. Certo, anche perché poi, come dicevi anche prima, Minneapolis è una città molto piccola, molto particolare, e questo episodio, insomma, è avvenuto in un contesto abbastanza peculiare. Senti, visto che hai anche introdotto il tema, e penso valga la pena approfondirlo, rispetto alle differenze tra città e città, che non sono solamente in termini di manifestazioni, ma anche, ad esempio, in termini di reazioni dei governatori o anche di atteggiamento delle forze dell'ordine. Peraltro, ci sono diversi livelli di forze dell'ordine che sono coinvolti nelle operazioni di controllo delle proteste di questi giorni, c'è la Guardia Nazionale, ci sono le polizie locali, ci sono diversi livelli anche sui giornali e sulle testate italiane sono rimbalzate in queste ore notizie relative anche a episodi come uccisioni di manifestanti, ma anche arresti di poliziotti. Quindi, se magari ci puoi fare anche un commento rispetto a questo, cioè rispetto a come anche ci sono da diversità fra le città su questo, e anche qual è l'atteggiamento delle forze dell'ordine, che abbiamo visto anche immagini appunto di alcune inginocchiate, ma altre, come ben ci dicevi prima, insomma, non sono così dolci. Allora, le forze di sicurezza degli Stati Uniti dipendono fondamentalmente dalle città. Diciamo, il cattivo è quello della cittadina, che è chi determina il tipo di risposta a situazioni di problemi di ordine pubblico. La Guardia Nazionale e l'esercito stanno lì, diciamo, più come supporto della polizia locale, della polizia cittadina, che come non hanno un ruolo attivo, diciamo. E questa cosa fa sì che tutte le polizie abbiano una maniera, un regolamento, una maniera di attuare completamente differente. Per esempio, la mossa di contenimento che ha ucciso George Floyd in molte città è proibita, cioè non la possono usare in nessun tipo di circostanza. In altre città, come Minneapolis, può essere usata in caso di estrema resistenza della persona che deve essere arrestata. E quindi ogni polizia ha un regolamento un po' a sé stante e ogni polizia ha una tradizione anche un po' a sé stante. Nel caso della polizia di Minneapolis, per esempio, quello che ho notato, era evidentissimo, è che sono praticamente tutti bianchi. Non c'è nessun colore di pelle differente dal bianco. Probabilmente tra centinaia e centinaia di poliziotti che ho visto durante le manifestazioni, forse, cioè io che mi ricordo, ho visto 3 poliziotti che non erano bianchi, che erano probabilmente asiatici o latinoamericani. Però 3 a centinaia è irrilevante, cioè un numero assolutamente irrilevante. In altre circostanze, come per esempio la polizia di New York, ha una fortissima componente di minoranza etnica, una fortissima componente afroamericana, e quindi probabilmente sono atteggiamenti completamente, cioè questo fa sì che le situazioni siano diverse. Una cosa che per esempio ho ascoltato molto a Minneapolis, che è una lamentela, perché dicono se la polizia venisse, se fossero poliziotti che venissero, che sono neri, che venissero dai quartieri neri, sicuramente il livello, l'atteggiamento del poliziotto alla problematica, o l'atteggiamento anche eventualmente dell'arrestato, della persona che sta violando la legge o che comunque deve interagire con il poliziotto, è diverso perché è meno spaventato. Un po' c'è stato questo episodio qualche giorno fa a Central Park a New York, che è molto dicente su questa cosa, di questa donna che ha minacciato un tipo che si è lamentato del fatto che la donna non avesse il cane a guinzaglio, che è il regolamento in tutti i parchi qui a New York, e la donna ha minacciato di chiamare la polizia, dicendo che stava che c'era un nero che l'aggrediva. E questa minaccia non era una minaccia così casuale, è perché questa donna evidentemente sapeva che comunque in quel momento avrebbe rischiato la vita, perché comunque ci sta questo tipo di ci sta questo tipo di relazione, e comunque i poliziotti bianchi tendenzialmente sono incredibilmente razzisti. Ovviamente questa cosa è una generalizzazione, anzi scusate, la cancello. No, però ci sta una componente bianca, razzista, corpi di polizia enorme, e questa cosa è ovviamente genera una prevenzione costante. In tutti questi giorni ci sono stati sono tantissimi episodi differenti. Come tu hai detto, ci sono i poliziotti che si sono inginocchiati davanti ai manifestanti chiedendo scusa in qualità di poliziotti, e questo qui ovviamente è una cosa che genera, che comunque è un passo avanti, no? Al di là di senza cercarlo di mitificare in una maniera incredibile, però comunque è il risultato delle proteste e delle lotte, cioè capire che ok, che non si può fare, che questa cosa non esiste, che siamo nel 2020 e non esiste la possibilità di immaginare che una persona possa morire nelle mani della polizia come è successo e come continua a succedere. Però poi nello stesso momento ci sono state ci sono città che stanno cercando di rispondere in una maniera diversa. Adesso stavo leggendo di Atlanta, e sabato scorso, durante le proteste, due giovani studenti sono stati arrestati in una maniera brutalissima da alcuni poliziotti, e la risposta del sindaco, che è alla fine quello che è responsabile della polizia, è stato di convocare due studenti durante la conferenza stampa, e durante la conferenza stampa far annunciare che è un ordine di cattura contro i poliziotti che l'avevano arrestati così brutalmente. Per cui è una situazione estremamente dinamica. C'è qualcuno che probabilmente capisce che per disinnescare il meccanismo di tensione è necessario dare una risposta forte. Ok, sei poliziotto, se abusi del tuo potere, la legge va a perseguirti in una maniera efficace e rapida soprattutto. Alla fine quello che è successo a Minneapolis e che adesso poi ha incendiato tutto il resto degli Stati Uniti è prodotto del fatto che non solo dell'omicidio in quanto tale di George Floyd, ma del fatto che nonostante la pubblicazione di un video che nel quale è evidente che la responsabilità del poliziotto che stava in ginocchio e che lo asfissiava, non c'è stata una risposta immediata. Probabilmente se alla pubblicazione del video, a distanza di 3 ore, fosse stato emesso un ordine d'arresto nei confronti del poliziotto e degli altri 3, che comunque sono evidentemente i suoi complici, perché 2 perlomeno era evidente che lo aiutavano a fare pressione su George Floyd, e l'altro stava lì a guardare e quindi era complice. Probabilmente se fosse stato emesso un mandato di cattura nel giro delle 2 ore non sarebbe successo, cioè tutto questo non sarebbe successo, probabilmente. Difficile fare speculazioni al rispetto. Assolutamente. Senti, c'è una cosa che un po' ha colpito molto, soprattutto diciamo i nostri interessi, delle tante dichiarazioni che ha fatto Trump in questi giorni, ne ha fatte diverse, insomma ormai ogni giorno sostanzialmente ne fa una peggio dell'altra. Peraltro ieri mattina Trump è stato costretto ad entrare nel bunker della Casa Bianca perché le proteste sono arrivate molto vicine alla sua residenza. Insomma, se prima aveva un atteggiamento diciamo anche più tra virgolette diplomatico, dicendo che comunque i poliziotti sarebbero stati perseguiti, che giustizia sarebbe stata fatta, adesso ha un po' cambiato completamente anche la sua dialettica, parlando di law and order, parlando di ordine e legge, insomma richiamando anche un immaginario più antico dei presidenti americani, e comunque è diventato estremamente più aggressivo rispetto anche alla repressione, e appunto sta esortando i governatori ad essere molto più duri nella repressione. L'altro giorno ha fatto un tweet molto preciso, accusando in qualche modo gli Antifa, non meglio specificati, di essere in qualche modo la regia della violenza delle manifestazioni di questi giorni, e che quindi avrebbe in qualche modo proposto di inserirla tra le organizzazioni terroristiche. Quindi diciamo, ti chiedo da una parte anche un commento rispetto a quello che poi è la situazione interna che Trump sta affrontando, che già era complicata prima della vicenda di George Floyd, e dall'altra ti chiederei un approfondimento su questa questione degli Antifa, cioè perché anche Trump ha additato in questa maniera questa entità non meglio specificata, e cosa poi diciamo che ruolo ricopre questa entità all'interno delle proteste di questi giorni. Beh, perché ha additato gli Antifa i gruppi anarchici, così, secondo me strategicamente era la cosa migliore da fare, cioè voglio dire, se fossi stato in Trump l'avrei fatto anche io, nel senso che additare il movimento, additare la comunità nera di responsabilità, accusarli, minacciarli, perseguirli, sarebbe in questo momento rovesciare un bidone di benzina enorme sul fuoco, e quindi non si poteva fare, cioè non era una cosa lungimirante, non è una cosa lungimirante oltretutto perché uno, perché comunque incendia ancora di più tutte le proteste e i disordini che ci sono in questo momento. Due, perché comunque la comunità nera è una comunità molto consistente dal punto di vista demografico e quindi anche dal punto di vista dei voti. Cioè, ricordiamoci comunque che ci sono le elezioni a novembre, nel senso è molto molto vicina la cosa. Per cui bisognava dare la responsabilità, bisognava essere cattivi con qualcuno, quindi a dire al movimento anarchista, al movimento antifa, che sono bianchi o vengono dipinti come bianchi, anche se diciamo, e probabilmente in maniera maggioritaria lo sono, e sono persone che non votano tendenzialmente, quindi diciamo non succede niente. In questo momento bisogna cercare un capro espiatorio, nel senso è fondamentale nell'arte di governare cercare un capro espiatorio. Ma questa cosa è molto complessa, perché anche all'interno del movimento, di questo completamente molto composito movimento che in questo momento sta esplodendo negli Stati Uniti, ci sono delle polemiche. Ci sono delle polemiche alimentate probabilmente da filtrare di false informazioni, alimentate chissà dalla parte dalle forze repressive, che cercano di far spaccare il movimento nero dal movimento anarchico e antifascista, che in questo momento in molti luoghi sta marciando e sta confrontando la polizia insieme al movimento nero. E non so, le informazioni, e questo l'ho sentito in prima persona e lo vedo, lo sento, lo vedo nei social network, l'ho sentito a Minneapolis, ho parlato con persone che appoggiavano un po' questa tesi, che in realtà il movimento nero è un movimento pacifico e che sta venendo sabotato da violenti venuti da fuori, che è una tesi antica infinitamente, che ha vari livelli, da coloro che accusano il movimento e dicono no, ma i disordini, gli incendi, i saccheggi sono fatti da bianchi e i bianchi e gli antifa sono una cospirazione pagata da Soros, che è una cosa bellissima, ogni tanto esce fuori Soros come il grande architetto dietro le quinte di qualsiasi cosa succede nel mondo, che ovviamente mi sembra una frescaccia. Però altri che in generale si lamentano del fatto che sentono che il movimento, che questo movimento antifa sta in alcuni luoghi sovradeterminando le forme e i livelli di lotta che si stanno producendo in queste manifestazioni. La qualcosa potrebbe in alcuni casi esistere, può essere vera, e potrebbe in alcuni casi non esserlo, nel senso che però è una dinamica normale nel momento in cui esistono movimenti molto compositi e vari e variegati, che comunque ci sono delle discrepanze forti in come gestire la piazza, come gestire la protesta. Questa è una dinamica assolutamente normale, appunto è normale perché poi dentro dello stesso movimento nero ci sono delle componenti infinitamente diverse, da coloro che dicono ok, questo è l'ennesima prova che non abbiamo nulla a che fare con i bianchi e con i governi di questo paese, l'unica soluzione è il separatismo, perché comunque tutti gli anni dal tentativo di rivendicazione dei diritti civili, comunque non abbiamo ottenuto, cioè abbiamo ottenuto sempre briciole da parte di un paese costruito sulle nostre schiene, sulle nostre forze, sulle nostre teste. E per cui è molto complicata, però ha questa, diciamo, questi rumori di questa cosa del movimento antifau, dei bianchi che vogliono fare gli scontri, che sovradeterminano, è una cosa che sta circolando, cioè è evidente che questo rumore sta circolando. Quanto sia reale, io penso che non sia una cosa reale, penso che sia assolutamente una cosa costruita, pompata, però che ovviamente ha il suo effetto. Ha un effetto, all'effetto di divisione, un effetto divisivo e evidentemente incredibilmente efficace. Adesso non so se ancora non, che io sappia o che abbia visto, non si è evoluto a livello di scontro, non ho mai visto in piazza, diciamo, discrepanze nel momento di fare le cose. E diciamo, se devo essere sincero, quando ho visto nei momenti dei disordini o quando sono state incendiate cose, non mi sembra proprio che di aver visto situazioni del genere a Minneapolis. A New York non credo proprio, e in altre città non saprei dirlo, però a Minneapolis ero presente nel momento in cui sono avvenuti, diciamo, alcuni sono state incendiate le sedi di Target, che è una grande cosa commerciale, un grande negozio di tutto, di più, una banca, e non mi sembrava che fosse un gruppo organizzato di bianchi che faceva queste cose apposta. Mi sembrava che tutto era molto spontaneo e che in realtà probabilmente il problema è che non c'era nessuno, il problema o la forza è che non c'era nessuna organizzazione dietro di questo. Come spesso è poi per movimenti così grandi e così variegati come quello che si sta formando, insomma, in questi giorni negli Stati Uniti. Bruno, sei stato molto chiaro ed esauriente, non so se vuoi aggiungere qualcosa in conclusione rispetto a prossime mobilitazioni o cose di questo genere. No, non è, il futuro è estremamente incerto. E secondo, cioè, come, però questa è proprio un'opinione, quindi è una cosa, secondo me in questo momento ci sono, comunque questa situazione è particolarmente esplosiva perché coincide con la situazione del virus, che ha portato un incremento della disoccupazione negli Stati Uniti enorme, e ovviamente l'incremento della disoccupazione vuol dire maggiore stress della gente, vuol dire maggiore conflittività e possibilmente, diciamo, questa cosa può essere una cosa che si alimenta in maniera circolare. E se poi c'è, cioè, quello che parlando con le persone del quartiere dove è stato ucciso George, che poi anche questo omicidio alla fine probabilmente è stato un po' un effetto secondario della crisi, perché George lavorava in un bar, una cosa del genere, perde il lavoro perché ovviamente tutti i bar sono chiusi, e è andato a comprare le sigarette o non so cosa, non mi ricordo cosa, con un biglietto falso. Per cui alla fine, diciamo, c'è una situazione che si autoalimenta in maniera circolare. E qual è il futuro? Quello lo sappiamo. E forse anche bene così, da una parte. Va bene, Bruno, grazie del contributo. Torneremo sicuramente a disturbarti nei prossimi giorni per aggiornamenti. Intanto un abbraccio e a risentirci presto. Un abbraccio, ciao a tutte e tutti. Un abbraccio a Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao, grazie.